9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or surprise, the end, I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale, vengo anch'io, no tu no, per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io! Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 21 di settembre, cambia ufficialmente stagione, quindi inizia l'autunno, oggi il primo giorno di autunno, un inizio di autunno con l'augurio, quello che si chiamano Matteo e... Allora, fatemi prima leggere un paio di lettere e poi andiamo ai nostri due argomenti del giorno, che sono due casi... in cui ci interroghiamo su come funzioni o non funzioni lo Stato. Il primo, ne parleremo, la RAI, che improvvisamente con la nuova dirigenza ci rivela che aveva ragione un consigliere d'amministrazione che fin dall'anno scorso diceva non credo ai conti in attivo lasciati dal direttore generale, e con il direttore generale di allora, Lorenzo Lai. Vengo anch'io a tutt'uno, ma perché? Perché no? E si scopre infatti che la RAI adesso perde 200 milioni. Come si può mentire su 200 milioni? Secondo argomento, ieri passa alla Camera dei Deputati una disposizione per la quale i privati dovranno pagarsi tra loro ogni 30 giorni massimo, nessun più dilazione di pagamento. Peccato che non si applichi allo Stato. Che Stato è una roba che dice gli unici onesti dovete essere voi? Perché io sono disonesto e me ne frego. Con l'odio ma senza l'amore, e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Eccoci, prima dicevo di questi due argomenti, tre lettere di quelle appunto che ci vengono dalla nostra mail Disperati Mai. Vi ho detto che continuano ad arrivare le lettere. E del resto, come vedete, il governo puntualmente ha riveduto al ribasso le stime del PIL. È un mistero per me come mai sempre la politica di qualunque colore debba dare dei numeri previsionali che sono astrusamente lontani da quello che ogni modello macroeconomico. I modelli macroeconomici, vedete, non hanno la tendenza a avere simpatia per questo o quel politico. Non è che cambiano le previsioni a seconda del colore politico o del colore tecnico dei governi in carica. Invece i governi in carica fanno sempre il contrario, vi dicono sempre che non è vero che stiamo scendendo di quasi più vicini a meno 3 che a meno 2, poi si scopre verso fine anno che naturalmente chi lo diceva è che prima veniva da Monti stesso additato. Ricordate la polemica contro Confindustria, rea di avere dato previsioni di questo tipo 6 mesi fa, il Presidente del Consiglio insorse dicendo che era un attacco alla sua credibilità in Europa. Naturalmente poi quando si va verso fine anno ci si riallinea e si scopre che si stiamo perdendo, sul governo dice meno 2,4, vedrete che sarà anche di più, e lo dico purtroppo senza nessuna soddisfazione. Allora, in questo quadro tre letterine su tre vicende che mi sembrano anch'esse descrivere cose su cui riflettere. Un primo ce lo mando a Marco. Marco è un autotrasportatore e ci dice questo: io lavoro per una grande società di trasporto, ci fa il nome, tra le più grosse d'Italia. A gennaio ci hanno dimezzato le trasferte, c'è un taglio di 400-500 euro al mese perché ci è stato detto che c'era la crisi. Va bene, dice Marco, pur di lavorare certo non ci lamentiamo, anche se 500 euro al mese in meno rispetto a quanto guadagniamo sono tante. Ora si sono inventati però che i mezzi che guidiamo devono fare una media di consumo decisa da loro, e se la superiamo mensilmente ci viene addebitato il gasolio. Così ai primi 500 euro di autoriduzione coatta della retribuzione, ora aggiungo altri 300 euro di correzione per l'eccesso rispetto alla media stabilita autonomamente dell'azienda. Con 800 euro in meno io semplicemente non posso più andare avanti rispetto a quello che guadagnavo. Abbiamo deciso di fare intervenire il sindacato, anche se questo naturalmente l'azienda lo vede malissimo. Chiedo aiuto, faccia in modo che questa storia, che nell'autotrasporto, di cui voi vi occupate solo per i sussidi che so non vi piacciono, sì, non ci piacciono effettivamente, Marco, però nell'autotrasporto c'è gente che lavora e che non può sopravvivere a questi tagli fatti in questo modo. Ecco, e abbiamo letto la lettera di Marco. Dopodiché ricordate la vicenda del nostro ascoltatore che avete sentito, il gestore di 3 ristoranti di una notissima catena di fast food, la prima che vi viene in mente per importanza, ma non ne faccio il nome, che vi documentava che con un fatturato annuo di 7 milioni e mezzo di euro riusciva per via delle tasse a portare a casa post-tasse un utile ridotto a 41.000 euro. Ce n'è scritto un altro, si chiama Michele Barbiere, lui gestisce a Udine altri 3 ristoranti di questa stessa catena e dice: le scrivo questa mail per fugare il possibile dubbio che il risultato di cui avete parlato sia un caso unico, per confermare invece che da noi oramai è diventato il caso standard. Anch'io nel 2011 ho chiuso un bilancio del tutto analogo come fatturato, quindi siamo nell'ambito di 7 milioni e mezzo l'anno, con un utile lordo di 94.000 euro, tasse per 87.000 euro su 94.000 euro, e quindi l'utile netto conseguente post tasse su un fatturato di 7 milioni e mezzo è ammontato all'astronomica cifra di 7.200 euro. Pensate, 7.200 euro su 7 milioni e mezzo di fatturato, perché sull'utile pretasse di 94.000 euro le tasse hanno portato via 87.000 euro. Ecco, questo, questi sono, per capirci, sono dei licenziatari. Che cosa vuol dire? Vuol dire che chi ha l'insegna e monta l'insegna di questa famosissima catena deve metterci i macchinari, le attrezzature, gli arredamenti, cioè tutta roba in cui investe di suo. Tanto è vero che ho chiesto: mi dite quanto investite per ogni punto di vendita, e la risposta è: per ognuno dei 3 punti di vendita che abbiamo investito 800.000 euro più IVA. Quindi fatevi il conto, stiamo parlando di un investimento complessivo di 1 milione per ognuno dei 3 centri, 3 milioni investiti, utile annuale su 7 milioni e mezzo di fatturato, che testimonia quanto si spaccano la schiena, quindi danno lavoro a molte decine di persone. Dopo aver investito 3 milioni e riuscire a fatturarne 7 milioni e mezzo, gli restano 7.000 euro di utile. Questo è il fisco italiano, tanto per essere chiari. Dopodiché, ai nostri amici colpiti nelle aree del sisma, in cui continuiamo noi a pensare, c'è scritto Andrea Bocchi da Mirandola e ci scrive questo: solo una breve considerazione sulla somma di 670 milioni di euro stanziata dall'Unione Europea per la regione Emilia-Romagna pro terremotati. Ci hanno molto colpito le parole testuali del commissario europeo Johannes Hahn, virgolette, dobbiamo aiutare questa regione altamente produttiva a rimettersi in piedi. L'ammontare dell'aiuto è il maggiore mai erogato dal Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea dalla sua istituzione nel 2002, perché riflette l'entità di danni provocati dal terremoto a migliaia di famiglie, alle loro case e ai loro mezzi di sostentamento e all'economia delle regioni in generale. La priorità europea è ridare un alloggio e sostenere le decine di migliaia di persone che hanno perso la casa in seguito a questo disastro epocale. Si chiede Andrea Bocchi. Mi domando, ma il governo e la politica non si è vergognato di fronte a queste parole, a questo atto, soprattutto alla lungimiranza della Unione Europea che annichilisce quella italica, se mai c'è stata? E poi ci sono delle considerazioni su naturalmente il ritardo di tutto quello che invece è relativo alla filiera italiana degli aiuti promessi. L'Unione Europea è andata oltre i limiti con i 670 milioni di qualunque stanziamento fino a questo momento, perché ha riconosciuto che l'intensità produttiva dell'area colpita era da salvaguardare. Ok, andiamo adesso al nostro primo punto. Il nostro primo punto è la scoperta che il bilancio Rai va a un buco di 200 milioni quest'anno e che aveva ragione, quindi per questo l'abbiamo chiamato Nino Rizzo Nervo, ex consigliere di amministrazione della Rai, che nella gestione precedente, quindi sotto la direzione generale di Lorenza lei, non sotto la nuova gestione Tarantola Gubitosi insediata dal governo Monti, il consigliere dell'amministrazione Nervo dall'anno scorso diceva: io non credo a quei bilanci previsionali, c'è un buco che lui stimava in 170 milioni, quindi era andato vicino alla soglia valutata dalla nuova gestione. Noi, siccome siamo molto scandalizzati e compiaciuti del fatto che ci fosse un consigliere d'amministrazione che, pur non avendo lui la gestione diretta dei conti, sapeva vederci dentro, abbiamo deciso di chiamarlo oggi, perché ci sembra uno scandalo che di un buco di 200 milioni, quando si presentava l'attivo, poi non ne risponda chi passa per un buon manager. Quindi è con noi Nino Rizzo Nervo. Buongiorno e grazie. Buongiorno, grazie a voi. E Paolo Conti, che è giornalista al Corriere della Sera, che da sempre si occupa di Rai, che ci aiuterà a capire anche lui. Allora, Rizzo Nervo, come mai i suoi colleghi la lasciavano sola in questo? Conta il fatto che, siccome Lorenza Lei era di nomina politica, bisognava comunque dire che era in attivo anche se era in perdita? Oppure semplicemente erano stime sbagliate e le cose sono cambiate negli ultimi mesi? Ma guardi, siccome io non sono un mago e non ero più preparato di altri, erano anche in consiglio, era sufficiente vedere le carte degli indicatori e le tendenze degli indicatori economici dell'azienda. Come mai? Io ti spiego. Il primo problema è che, non, rispetto alla gravità della situazione, non si è avuto il coraggio di affrontare il vero tema della RAI, che è una profonda ristrutturazione industriale del gruppo, che è l'unico che poteva puntare anche domani dei risultati positivi. Secondo, a dicembre, quando io votai no contro il budget di previsione del 2012, si era in scadenza, il rinnovo sarebbe dovuto venire 6 mesi dopo, e quindi probabilmente bisognava dimostrare, c'era il governo Monti, già governo tecnico che teneva d'occhio i conti, bisognava dimostrare che la RAI era stata risanata e quindi si candidava alla conferma. Io credo che solo questo possa essere avvenuto, perché non credo che la stessa Lorenza Lei o il presidente Gariberti non vedessero le cose come le vedevo io, tant'è che poi si sono realizzate le mie previsioni. Però se le vedevano come le vedeva lei, forse avrebbero dovuto produrre numeri diversi, quindi evidentemente no. Sì, guardi, il problema è che sul budget di previsione non ci sono responsabilità, sono sulla chiusura del bilancio che ci sono responsabilità. Quindi un budget di previsione io lo posso fare in tanti modi. Se do come obiettivo alla Sipra, come era stato fatto, 1,3 miliardi di euro, sapendo perfettamente la crisi del mercato, conoscendo perfettamente la crisi del mercato pubblicitario, è semplicissimo poi dire: chiuderò in sostanziale porre in pareggio. La cosa grave è che questa tesi è stata sostenuta pubblicamente, persino in vigilanza, il 29 febbraio, e in tante interviste fatte anche a Paolo Conti, che ospite suo al Sole 24 Ore, a Marco Mele, sino a 5 giorni prima della sostituzione. È inspiegabile, io dico, tanto come lei, dico, è inspiegabile, perché una previsione di quel genere francamente non l'avrebbe fatta neanche mia figlia, che studia ancora economia aziendale. Anche perché, Paolo, la mia opinione è che Lorenza Lei, manager di lungo corso, di cui il centrodestra ha tentato, per così dire, di vantare i meriti e così via, però con un finale di gestione di questo tipo, mi sembra due volte un autogol per lei, per la parte politica che l'ha sostenuta, cioè leva ogni credibilità a una cosa di questo genere, oppure no? O in che cosa sbaglio, perché non sono un attento auscultatore di ciò che ogni giorno viene dal cuore dell'azienda pubblica di informazione? Paolo, che dici? Guarda, non sbagli nulla, ma c'è un elemento in più che va aggiunto al quadro che è stato appena fatto anche da Nino Rizzo Nervo. Lui probabilmente non lo dice perché giustamente me la prendo io come responsabilità da cronista. C'era un altro aspetto: se l'azienda si fosse presentata alla fine dell'anno passato in una condizione drammatica, veniva commissariata. Allora, chiaramente questa edulcorazione, questo imbellettamento di questo bilancio è servito a dissuadere fortemente Monti e tutto il nuovo governo dal compiere un gesto che avrebbe prestato il fianco non solo a critiche ma addirittura a ricorsi, e quindi automaticamente in questo modo questa rappresentazione è servita a un ricambio normale. Poi chiaramente un manager come Gubitosi e una signora con la professoressa Tarantola, che arriva appena appena da Banca d'Italia, hanno messo pochi giorni per capire i meccanismi che stavano dietro a tutta questa euforia. Allora, aspetta un secondo, voglio fare una domanda a Rizzo Nervo. Il fatto che lei fosse solo, alla luce di quello che secondo me correttamente ha aggiunto Paolo Conti, cioè se trattava di evitare il rischio di commissariamento, spiega forse che anche, diciamo così, nella parte dell'opposizione si è preferito fingere di credere a quel budget, perché il commissariamento significava andare più rapidamente a disvellere cordate, testate, direttori, cose eccetera eccetera, che tutto sommato poi, essendo la RAI a fortissima presenza partitica, meglio evitarlo il commissario con troppi poteri, perché così poi ci batteremo meglio nel dopo Berlusconi. E c'è stato anche questo elemento secondo lei, Rizzo Nervo? Ma guardi, questo francamente non lo so. Tra l'altro, in quel periodo, se non ricordo male, ad esempio Bersani lo chiedeva il commissariamento, quindi non sono del tutto d'accordo con lei. Però c'è stata sicuramente da parte di tutti, quindi anche da parte dell'opposizione, una sottovalutazione della situazione, probabilmente anche per i motivi che dice lei, perché tanto poi ad aprile si va a votare e allora forse non conviene a nessuno il commissario. Senta, vediamo cosa ci dice adesso Paolo, ma dovesse dire lei in questi suoi anni di esperienza e dovesse indicare, non c'è tempo per parlare del modello, ma diciamo un paio di scelte di fondo industriali per ridare un senso e un equilibrio alla luce del mercato, alla luce del canone, dello sviluppo tecnologico, a questa enorme azienda overstaffata e con enormi problemi ancora di precari, di contratti da mettere in regola e così via. Un paio di scelte industriali di fondo, secondo lei, in sintesi, quali potrebbero essere? Ma guardi, una innanzitutto quella di rendere compatibili le risorse con gli investimenti. Cosa voglio dire? Le faccio solo un esempio. BBC, che sta meglio di noi, o la televisione pubblica tedesca, che sta molto meglio di noi, hanno un'offerta, BBC ha un'offerta di 2 canali generalisti e 6 canali digitali. La Germania ha un'offerta di 2 canali generalisti e 14, quindi come la RAI, ma risorse per oltre 8 miliardi di euro. La RAI oggi ha le stesse risorse del 2000 e fa 15 e fa 14 canali, non è più possibile. E poi la RAI deve cambiare il modello strutturalmente organizzativo, perché è ancora un modello disegnato sugli anni del monopolio. La BBC, le faccio quest'altro esempio, ci sono 12 riporti del direttore generale, primi riporti del direttore generale, in RAI 50, questo sì, lo so. BBC ha una sola direzione giornalistica, France Television 3, la Germania 2, in RAI sono ancora 11, esatto. E sappiamo perché sono 11, esatto. Perché continua la divisione per l'ottimo, esatto. Allora, se non si affonda il coltello su questi problemi e su questa nuova visione di un'azienda che ormai sta in concorrenza con tante altre, allora la RAI non si salva. Ecco, io sono molto d'accordo a cominciare dal secondo comparto che lei ha detto, mentre per il primo io non credo tanto al fatto di dover adeguare le risorse a quello che la RAI è o crede di essere, ma invece il contrario, quello di adeguare la RAI alle risorse che può pensare di avere. E devo dire con un ragionamento di fondo sempre sul canone, cioè la mia idea è che il servizio pubblico in realtà si gestisce con una bella asta e mettendo dei vincoli ai privati, oltre che alla RAI attuale, che possono candidarsi a vincerlo, e si smonta proprio il cuore di questo enorme equivoco che purtroppo il berlusconismo in questi anni ha eternato, perché questo è un altro amaro prezzo da pagare alla presenza di Silvio Berlusconi, e lo sappiamo perfettamente. Paolo, tu che dici invece di questi due punti che Nino Rizzo Nervo dobbiamo salutare perché sta prendendo un aereo, quindi grazie a Rizzo Nervo di essere stati con noi, buongiorno, ma intanto Paolo Conti, tu di questi suoi due punti che dici? Guarda, io ne aggiungerei altri due, cioè prima di tutto la RAI ha smarrito la cultura e la forza della ideazione dei programmi al proprio interno, affidando tutto a società esterne. Tutto quello che noi vediamo da Sanremo in giù, adesso quest'anno Sanremo rientra, ma sono tutte società esterne. La RAI era famosa proprio per questa sua cultura di questo saper fare, un po' come una Cinecittà televisiva. Questo è il primo punto, cioè ricondurre all'interno dell'azienda l'ideazione e la cultura del saper fare televisivo. C'è ancora l'ideazione all'interno dell'azienda, secondo te? Guarda, c'è molta gente, tanta gente, anche giovane, anche con contratti precari, purtroppo, cioè la parte migliore che io ho conosciuto è spesso viene da queste persone che hanno lunghissimi, eterni contratti di collaborazione esterna, e per tenere fede a questi contratti dà il meglio di sé, e quindi purtroppo avviene che molte ideazioni avvengano anche in strutture che non sono propriamente interne. Questo è il primo punto. Il secondo punto, io ho un'idea un po' diversa dalla tua, ma non voglio adesso entrare nel merito, ma partendo dal fatto che viviamo in questo mondo, credo che abbia ragione Monti quando immagina che bisognerà trovare uno strumento per abbattere l'evasione del canone, perché delle due l'una: o aboliamo il canone o il canone lo pagano tutti. Non credo che sia ammissibile questa terza via che porta una perdita alla RAI di centinaia, mi pare siano 250-300 milioni annui. Ora, anche qua è una questione di regole: se decidiamo che la RAI debba vivere di sola pubblicità, si può benissimo fare, ma nel momento in cui c'è il canone va pagato da tutti, altrimenti è inutile. Questa è la Repubblica dei Furbi, mi sembra ridicolo. Beh, su questo la pensiamo radicalmente diversa. Quest'anno abbiamo assistito anche all'Agenzia delle Entrate che ha tentato di far pagare il canone a chi usa gli schermi per motivi professionali, ai professionisti, tra quelli, eccetera, eccetera. Quindi, siccome non è un canone dovuto alla televisione, ma è una tassa sul possesso di schermi e device ricettivi, lo Stato impari a dirci che cosa vuole, perché se ci prende in giro, la mia risposta diventa molto puntuta. Quindi, e il problema è che bisogna intendersi su che cos'è il servizio pubblico. Io, naturalmente, so di essere minoritario. Nel breve periodo, credo anch'io, che in questo Paolo Conti ci abbia dato una corretta indicazione, da quello che si capisce, credo che probabilmente la gestione Tarantola-Gubitosi, cioè la gestione della RAI messa in piedi dal governo dei tecnici, avrà più probabilità di andare avanti con misure, tra virgolette, più penetranti, più coattive, più efficaci per estendere il pagamento obbligatorio del canone di quanto non sia risultato a gestioni, tra virgolette, politiche. Cioè, questa volta, per essere chiari, io mi aspetto davvero che si dica che il canone si abbina, per esempio, all'abbonamento elettrico, perché se non lo paghi ti levano la luce. Questo io sono convinto che avverrà. Sapevo e immaginavo che le lettere che vi ho letto prima avrebbero suscitato addirittura più duri commenti con gli sms al 349-238-6666 di quanto invece voi non riserviate alla RAI. Perché? Perché molti di voi naturalmente non credono, risolutamente non credono ai numeri che vi ho letto dei licenziatari di quei ristoranti, cioè che su 7 milioni e mezzo di fatturato si arrivi a un utile netto di 7.200 euro. Moltissimi tra voi dicono: mentitore. Altri aggiungono: dici che case, che macchine hanno. Altri aggiungono: sono degli evasori conclamati, questi sarebbero gli imprenditori che voi difendete, come possiamo credere che facciano così poco su 7 milioni e mezzo? Menti. Guardate, ce n'è una raffica di lettere così. Allora, io voglio chiedervi una cosa: ma com'è che siete convinti che funzioni questa crisi? Cioè, secondo voi la crisi che produce danni su centinaia e centinaia di migliaia di disoccupati in più, che produce artigiani e commercianti che chiudono a catena e che produce una sofferenza interna per tutto il mercato domestico, perché c'è meno reddito disponibile, quindi meno consumi, eccetera, secondo voi si ferma solo ai dipendenti la crisi, o si legge anche in questi bilanci totalmente veritieri che vi ho letto il motivo per cui le imprese chiudono alla fine, visto che è lo Stato a gravare e a rapinare una parte così elevata del loro utile? Guardate che, se non credete a questo, ecco una delle ragioni per cui noi ci presentiamo divisi di fronte allo Stato ladro. Divisi. Ci dividiamo tra noi e lui gode e ci bastona. Come la politica ieri ha dato un altro piccolo esempio, secondo me, in questo voto che c'è stato alla Camera dei Deputati sull'argomento della materia, che è una delle tre forti ragioni della crisi. La prima è l'enormemente accresciuta pretesa fiscale dello Stato, la seconda è il credito, ma la terza è il fatto che tutti sono diventati, moltissimi sono diventati cattivi pagatori. A cominciare dallo Stato, che deve alle imprese 7 punti di PIL tra debito commerciale non pagato e crediti fiscali non riconosciuti. Ieri il Parlamento vota una delibera per la quale per i privati si mette il termine di 30 giorni per i pagamenti. Viva, finalmente daremo una risposta al problema dei ritardati pagamenti. Però naturalmente questo per lo Stato non vale. Non vale, cioè lo Stato pretende di mettere chiarezza nei conti altrui. Dice ai privati che è indegnità ritardare il pagamento dei debiti. Dei suoi continua a non rispondere. O meglio, questo governo ha ammesso che il problema esiste, ha detto che iniziava da un meccanismo di certificazione del credito e di compensazione fiscale, ha fatto capire che però si trattava di diluire il provvedimento in tranche di un decennio, quindi i primi 10 miliardi entro più un anno. Risultato, anche quei pezzi di pubblica amministrazione che non erano in ritardo di 6 mesi o un anno, 2 anni a pagare, hanno capito solo una cosa: bisogna aspettare per un decimo, un anno. Vabbè, inizio ad aspettare pure io e non pago. Questo è stato l'effetto del provvedimento del governo. Però naturalmente noi adesso dobbiamo leggere sui giornali che è una misura di grande civiltà che il Parlamento dica ai privati che invece devono pagare entro 30 giorni, ma per lo Stato ovviamente non vale. Allora, abbiamo due ospiti dai quali chiedere un'opinione, perché il primo è Giuseppe Bortolussi, che conoscete tutti, già maestro eccetera eccetera, che ieri ha salutato positivamente questa misura, e siccome io e Giuseppe praticamente andiamo d'accordo su tutto, ieri mi sono detto chiamiamo Giuseppe, perché sono molto curioso di sapere perché devo considerare positivamente una cosa che lì per lì mi indigna, perché lo Stato come sempre non dà risposta. Quindi innanzitutto Bortolussi, buongiorno e grazie di essere buongiorno con noi. Buongiorno a voi. Buongiorno e poi Paolo Buzzetti, il presidente dell'ANCE, che invece insomma è uno di quelli che più si è battuto molte volte anche a questi microfoni per dire, con questo fatto che qui non si continua a non vedere un euro per il settore che è già tragicamente in crisi, è diventato uno dei problemi maggiori di moltiplicazione della sua crisi. Paolo Buzzetti, buongiorno anche a te. Buongiorno a tutti. Allora, Bortolussi, perché dobbiamo dire che è una buona cosa? Giannino, mi perdoni un secondo solo, una piccola strambata su quello che diceva prima. Ma se è vero che si guadagna tanto a fare i lavoratori autonomi, si può evadere, si hanno i macchinoni, ma perché fanno i disoccupati o gli impiegatucci a 1200 euro al mese? Ma facciano gli autonomi, ma facciano gli imprenditori, se è così facile si guadagna tanto e soprattutto si può evadere impunemente. Comunque, per il discorso che riguarda i tempi di pagamento, sa perché ho salutato molto favorevolmente e lo faccio ancora e ancora di più? Perché entro novembre, esercitando la delega sullo statuto delle imprese, bisogna prevedere anche i tempi che lo Stato ha per pagare, capisce? Cioè io ho salutato molto favorevolmente e dico no 30, 10 giorni, poi vediamo cosa fanno per lo Stato, cioè non potranno mica tirarsi indietro, non so se mi spiego. Ma tu ci credi alla luce di quello che sappiamo da decenni che non possono tirarsi indietro? No, ma guarda, il discorso è molto semplice, no? I 4 decreti per accelerare i tempi di pagamento, hai ragione tu, li hanno allungati. Per esempio, ho presente alcuni grossi comuni che adesso, quando fanno il contratto, mettono tempo di pagamento un anno e si prendono comodi, ma per iscritto, contrattualmente. Ragion per cui ti dico, io ti capisco quando tu dici lo Stato fa i suoi porci comodi, non paga le imprese 70-100 miliardi, molte sono fallite. Ti ricordo la storia dei suicidi, ma il paradosso è suicido non perché sono indebitato, perché sono fallito come imprenditore, ma per crediti e soprattutto crediti dallo Stato, e su questo lo Stato e tutti sono stati zitti. È vero, hai ragione, ma siccome nella delega sullo statuto delle imprese è previsto che entro novembre devono essere stabiliti i tempi in cui lo Stato paga, io dico, signori, va bene per le imprese, l'avete stabilito, non farete mica meno di stabilirlo adesso per lo Stato? E tra l'altro, vigilando tutti quanti le imprese, noi, tu lo fai molto bene, sul discorso poi che questi tempi vengano rispettati. Una cosa, su una cosa ti do tanta ragione, perché vedi, potevano essere 60 giorni, tranquillamente. Invece 30 sembra quasi un'esagerazione, una cosa che giustifica poi chi non manterrà la parola, chi non pagherà entro 30 giorni, perché 30 giorni sono troppo pochi. È vero che è prevista la possibilità contrattuale di andare a 60, ma oltre i 60 poi scattano gli interessi di mora, eccetera. Cioè, mi sembra il solito giochetto all'italiana che riguarda la 6 e 26, che riguarda altri provvedimenti dove in Italia si esagera. Mi spiego, si fanno le grida di manzoniana memoria, così tutti riconoscono, come quando vai per la strada e ti mettono velocità massima 10 all'ora, beh, 10 all'ora non lo rispetterà mai nessuno, e c'è già la giustificazione implicita per andare oltre, mi spiego, per non rispettare quel vincolo. Mi sembra che questi 30 giorni siano un po' un'esagerazione, una cosa, e dopo vedremo appunto. Però tu dici tatticamente tanto vale battere le mani a questo vincolo, perché questo ci consentirà di incalzare con ancora maggior durezza lo Stato, ma per vedere se lo riuscirà. Ma vabbè, questo è lo scopo. Aspetta un secondo, sentiamo Paolo Buzzetti su qual è il suo gradiente di fiducia invece verso la capacità e la possibilità che lo Stato segua subito in un impegno che anche Bortolussi riconosce, secondo me giustamente, essere troppo impegnativo per i privati, giusto, ma troppo impegnativo. Che dice Buzzetti? Ma Oscar, dico che questa partita dei pagamenti, insieme alla necessità che torni a circolare denaro, finanziamento alle famiglie innanzitutto e alle imprese, è la svolta decisiva, non dico per la crescita, ma per invertire la tendenza che sta portando le imprese a chiudere e l'economia a fermarsi completamente. Non siamo d'accordo con, non c'è ancora la cura, insomma, vera per far riprendere l'economia italiana, e la situazione di questi due elementi sono quelli fondamentali. Il rispetto al problema dei pagamenti, su cui ci stiamo battendo e ci batteremo come partita fondamentale, direi che questo provvedimento del Parlamento, sebbene tocca un punto giusto, perché abbiamo sempre detto tutti che è indispensabile anche rimettere le regole tra privati e non solo da parte della pubblica amministrazione, secondo me è un protagonismo del Parlamento che ha, diciamo, in attesa di questa direttiva europea, capisco un po' poco, perché in realtà rovescia la filosofia della direttiva europea, che chiede prima di tutto che siano le amministrazioni pubbliche e lo Stato a intervenire con tempi certi di pagamento. Quindi è giustissimo anche richiederlo ai privati, sono anche d'accordo con quanto dite che 30 giorni sono estremamente rigidi, ma al di là di questo è che si aggiunge un elemento di confusione, mentre la cosa è chiarissima, la direttiva europea parla di 30 giorni di pagamento per le amministrazioni pubbliche, se arrivano a 60, poi dopodiché dal 61° giorno scattano gli interessi dettati dalla BCE, quindi con un 8% più gli interessi della BCE, quindi è una norma assolutamente chiarissima da adottare. Allora, quello che diciamo noi è che nello stesso tempo si sta perdendo moltissimo spazio di tempo e di discussioni per adottare quei decreti attuativi che pure ormai dovrebbero essere pronti, cioè dopo gli accordi raggiunti a maggio e poi ad agosto, che hanno perfezionato le modalità in cui i decreti attuativi dovevano indicare i pagamenti alla pubblica amministrazione, non succede niente, cioè i decreti attuativi non sono arrivati. Esatto. Quelli che perlomeno permettono di andare in banca all'imprenditore pur continuando a pagare fior di interessi, che non dovrebbe pagare, perché è l'unico paese al mondo in cui il creditore paga interessi su quello che dovrebbe avere. Nonostante questo, e con le facilitazioni che sono costate battaglie durissime e confronti durissimi per arrivare ad avere, per esempio, nelle imprese di costruzione il certificato di pagamento valido, per non incidere sul castelletto delle imprese già aggravate, bene, tutto questo dove sta? Non arriva, e intanto i mesi, i giorni passano. Il Parlamento che decide, scegliamo noi un'altra strada ancora. Allora, voglio dire, io capisco, dal punto di vista della ragione, sono d'accordo assolutamente sul fatto che dobbiamo regolare contemporaneamente anche il rapporto tra privati. Questo è assolutamente indiscutibile. Ma nello stesso tempo dico, come mai continuiamo a fare le cose, a dire di averle fatte e di non farle diventare operative? Anche perché vorrei aggiungere questa storia dei 100 miliardi, ma ormai la sanno tutti, l'Eurostat ci ragiona sopra, ormai è evidente che lo Stato italiano nel complesso, le amministrazioni pubbliche hanno questo debito, allora mi chiedo, perché non pagarlo? Oh, perché sarebbe un'iniezione fondamentale nelle imprese, ma cambierebbe le cose, ma non hai perfettamente ragione. Le cose e creerebbe una... Creerebbe un momento di liquidità importante. Questo è altrettanto importante che si metta in condizioni il sistema bancario di tornare a dare mutuo alle famiglie e di tornare a dare mutuo e assistenza finanziaria alle imprese. Qui il sistema delle piccole imprese chiude se continuiamo con una carenza di liquidità di questo genere. Allora voglio dire, tutte le battaglie che tu hai fatto per primo e benissimo su questo argomento, su cui siamo tutti d'accordo, non deve essere lasciata in questo momento, perché poi ci distraiamo, facciamo i programmi, esatto, lo sviluppo, esatto. Poi, ma lo sviluppo intanto quello che mi preoccupa è che si inizia della gente, ma non vi preoccupate, nel 2013 si vede la luce, si vede, tornerà il segno più, eccetera eccetera. Allora io mi prendo l'impegno di dirvi che per come funziona un modello econometrico e per la vischiosità e il ritardo con cui i meccanismi di trasmissione dell'economia italiana, quando anche la domanda internazionale fosse più solida di quella di oggi, che il rallentamento è ancora forte in corso nei paesi traino, quando anche si verificasse quello, per come funziona ed è vischiosa l'economia italiana, non si passa da un prodotto potenziale col meno 3 di quest'anno, più vicino al meno 3 che al meno 2, a un segno più in un trimestre o due trimestri. Questo ve lo potete levare dalla testa. Comunque abbiamo sentito due campane diverse, una più tattica di Bortolussi che dice battiamo le mani alla delibera della Camera perché questo ci serve per incalzare lo Stato, e poi Buzzetti che dice sì, noi intanto non abbiamo visto niente di questo Stato che dice, promette, ma oramai tutti hanno capito che c'è un debito pubblico, tanto vale farlo emergere e pagarlo, questa liquidità potrebbe fare la differenza. Invece lo Stato fa finta e poi dice pagatevi tra voi, perché io naturalmente non ne voglio sapere. Eccoci qua sulle parole di Jim Morrison, sentiamo sui temi del giorno che abbiamo trattato, innanzitutto Elvio che ci chiama da Macerata, prego Elvio. Sì, buongiorno. Buongiorno. Senta, volevo intervenire a proposito di quella dichiarazione che ha fatto quell'imprenditore, sì, lì che sì, guadagna 7 milioni, cioè fattura 7 milioni e mezzo di euro. E fa un utile dopo le tasse di 7 mila. Esatto. Io sono rimasti 7 mila. Io, siccome so una partita IVA e sono un piccolissimo artigiano, capisco che questo signore ha detto la verità. Io nel 1992, parliamo di 10 anni fa, quando mi sono messo per conto mio, cioè no, facevo l'agente di commercio, ho preso 100 e passa milioni di provvigione, meno le spese, ho denunciato 58 milioni di, c'erano le lire, ma preciso, tutto fatto per bene. Certo. Mi sono dovuto prestare 8 milioni dalla suocera per pagare le tasse e i contributi. Ah. Ci crede lei? Sì, sì, purtroppo ci credo, è altro che esercizio. 90... Allora, questi signori quando telefonano e dicono che questi noi siamo ladri, siamo casolari. Prima di tutto, signor Oscar, dottor Oscar, si faccia dire se hanno una partita IVA, perché se non hanno mai avuto una partita IVA non capiscono niente di quello che dicono, non sanno nemmeno quello di che parlano, o sono tutti impiegati dello Stato, o comunisti che non hanno mai lavorato e campano a spese dello Stato. Vabbè, adesso non mettiamola sulla politica, io ringrazio. No, perché io non conosco. Senta una cosa, Raolda, il presidente. Perché vede, io temo che a dividerci sbagliamo. Io riconosco che ci sono tantissimi, la stragrande maggioranza dei lavoratori dipendenti incazzati e che dicono a noi ce li prendono autonomamente, quelli invece, siccome le devono pagare loro le tasse, hanno la possibilità. Ma l'errore è credere e che entrambi stiamo male, visto quello che come ci tratta lo Stato, invece che dividerci. Se ci dividiamo, secondo me facciamo peggio. Luigi da Pisa, che pensa Luigi? Buongiorno, io invece sono in tutte e due i parti. Io sono dipendente pubblico e mia moglie è partita IVA, quindi sono al di sopra di tutto. Quindi conosce bene le duplici realtà. La duplice realtà. Io direi questo, una cosa è vera, non facciamoci la guerra tra noi che non serve, perché qui è lo Stato che è ladro, come dice lei. Comunque, le dico due cose. Uno, lo scandalo dei canoni RAI chiesti alle badanti che vivono con gli anziani, forse lei questo si è dimenticato di dirlo. Bravo. E questo però è uno. Poi vorrei dire un'altra cosa. Il governo Monti che ha iniziato in una certa maniera, ora mi sembra, le faccio un confronto, una squadra di calcio con una difesa scarsissima e con gli attaccanti che fanno autogol, perché stanno distruggendo l'economia di questo paese. Gli attaccanti che fanno autogol, questo non ci avevo mai gli pensato. Gli attaccanti che fanno autorete con una difesa scarsissima. Quindi va bene Luigi, grazie. Sentiamo anche Alessandro da Torino. Alessandro, ci sei ancora? No, è caduto, e quindi mi dispiace perché abbiamo a questo punto io vado in fretta perché, come avete capito, ormai il nostro spazio si è ulteriormente ridotto, quindi sono già in chiusura, vi devo dare appuntamento lunedì. Oggi vi ho dato un altro paio di occasioni per capire, mi chiedono ogni tanto, io come vedete ne parlo pochissimo di fermare il declino perché non posso farmi cacciare perché parlo di politica nella trasmissione, però guardate che i ragionamenti di quel decalogo www.fermarildeclino.it, gli argomenti sono tutti i giorni sotto i nostri occhi, non è che lo dico io, lo Stato ladro, si comporta da ladro, questo è ladro, Stato ladro. A lunedì.